Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Oltre 50.000 posti di lavoro vacanti nell'industria e nei servizi, Sacconi. Questa anomalia è il risultato delle note carenze del sistema educativo e formativo. Vicenda Monte Carlo AN, il ministro di Santa Lucia. È vera la lettera in cui si dice che Giancarlo Tulliani è titolare della società. Bossi su Fini non si può contare. Napoli di nuovo sotto cumuli di spazzatura, roghi e scontri nella notte contro l'apertura della nuova discarica. Giochi del Commonwealth in India senza pace. A pochi giorni dall'inizio, nuova polemica. Bambini sfruttati per preparare le strutture. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ieri lo ricorderete, i dati brutti sulla disoccupazione. Oggi dei dati che fanno invece riflettere. Cresce la disoccupazione, toccando il record dal 2003. E colpisce soprattutto i giovani, ma contemporaneamente cresce anche la disponibilità di posti vacanti nelle imprese. L'Istat infatti ha comunicato oggi che nel secondo trimestre di quest'anno i posti nuovi o che stanno per liberarsi nell'industria e nei servizi e per i quali il datore di lavoro è alla ricerca di candidati idonei sono aumentati di 0,2 punti percentuali. All'interno dell'industria la disponibilità riguarda per lo più le attività manifatturiere e le costruzioni, mentre nel terziario i maggiori aumenti riguardano i settori del commercio, delle riparazioni e una serie di altri servizi, tra cui quelli immobiliari, professionali, le attività scientifiche e tecniche, il noleggio, le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese. Risultano invece in calo i posti vacanti nei servizi di trasporto e magazzinaggio. Barbara Bonomi da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Questa anomalia è il risultato delle note carenze del sistema educativo e formativo, perfino nel mezzogiorno, commenta il ministro del welfare Maurizio Sacconi, secondo il quale vi sono professionalità che le imprese cercano ma non trovano o per carenze di mestieri o per indisponibilità degli italiani. Ma sentiamo Giampaolo Oneto, direttore statistiche congiunturali dell'Istat, ancora al microfono di Barbara Bonomi. La risalita del tasso di posti vacanti è un primo effetto, anche se debole, perché se noi guardiamo adesso il livello di questo indicatore di tasso di posti vacanti è risalito rispetto ai momenti di massima crisi, però risulta ancora relativamente basso rispetto per esempio a tutta la fase dal 2006 al 2008. Dall'altro lato il tasso di occupazione è un indicatore che reagisce a molti più fattori, compreso appunto quante persone ritornino a cercare lavoro dopo una situazione difficile, quando comincia a essere qualche barlume di ripresa. Un ulteriore elemento che va tenuto in considerazione quando si guarda al tasso di posti vacanti è il fatto che il tasso di posti vacanti tipicamente coglie la domanda di lavoro da parte delle imprese, che spesso è una domanda con caratteristiche specifiche, specializzazioni, luoghi naturalmente dove le imprese cercano lavoro. Ci può essere del lavoro cercato in alcune zone del paese che invece non trova poi un corrispettivo perché invece la disoccupazione sta altrove, e ci può essere anche un problema di qualificazioni, di tipologie di lavoro che sono diverse. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Il 2009 sul 2008 è calato del 22-23%, e la ripresa che si registra al primo semestre, siamo intorno al 5-6%, invece si prevede una ripresa intorno al 10% a chiusura anno. Stefania Dell'Atte è responsabile per la ricerca e il marketing dell'azienda Fratelli Tandoi, un'azienda storica pugliese nel settore alimentare. Il fatturato del 2009 è stato di 90 milioni di euro. In calo appunto del 22-23% rispetto all'anno precedente. Ma le cose stanno andando meglio, vediamo perché. Il 2009 è stato segnato da una riduzione dei prezzi di vendita causata da una diminuzione dei costi delle materie prime, che quindi nonostante abbiamo mantenuto i volumi costanti ci ha ridotto notevolmente il fatturato. Quest'anno invece già al primo semestre c'è stata una ripresa e c'è la previsione che questa ripresa abbia una percentuale più importante. Se guardiamo la prospettiva, quindi le proiezioni, fino fino a dicembre 2010. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla pagina politica, ancora la vicenda della Casa di Monte Carlo al centro del dibattito. Ci colleghiamo con Roma e con Elisabetta Fiorito. Continua il muro contro muro tra PDL e Fignani sulla Casa di Monte Carlo, proprio così Piera. Questa mattina qui a Montecitorio interviene il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto, che replica ai Fignani e accusa anno zero. È in corso un'indegna montatura che vorrebbe coinvolgere il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nelle vicende di dossieraggio sulla Casa di Monte Carlo, fatta su una trasmissione del servizio pubblico. Depistaggi per Cicchitto solo per far dimenticare che Gianfranco Fini non ha chiarito, e solo il 29 secondo Cicchitto, il 29 settembre, nel voto alla Camera sapremo se Futuro e Libertà voterà per il governo. Ieri ad anno zero, lo ricordiamo, Italo Bocchino ha continuato ad attaccare. Se c'è un leader politico che fa un'operazione tutta politica, anche di dissenso, viene sottoposto al linciaggio. Più pacato tra i Fignani Benedetto della Vedova, la politica esca dal fango, noi vogliamo le riforme, dice, mentre dall'opposizione attacca Antonio Di Pietro. Fini ha responsabilità morale, non parla perché è ricattato, deve andare a casa insieme a Berlusconi. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Casa di Monte Carlo, i Fignani accusano il giornale Libero di killeraggio politico. Secondo voi hanno ragione? Era proprio la domanda del nostro sondaggio di questa mattina. Bene, il 61% di voi ha risposto di sì. Ma sentiamo su questo Flavia Perina, deputata del FLI e direttore del Secolo d'Italia, al microfono di Alessandro Milan. Onorevole Perina, sulla giustizia voi non voterete nulla, cioè non c'è nessun dialogo sulla questione? No, ma è stato interrotto il dialogo, ma questa insomma non è un'indiscrezione, è una notizia. Dobbiamo avere chiarezza su quello che sta succedendo, dobbiamo capire che cosa è successo, ci si devono, credo, anche delle spiegazioni di carattere appunto istituzionale. C'è il fondato sospetto che si siano mossi elementi ambigui per costruire questo castello di bugie. Vogliamo capire che cosa sta succedendo e soprattutto se c'è un coinvolgimento di elementi del PDL in questa vicenda. Vittorio Feltri ha lasciato la direzione del quotidiano Il Giornale per diventare direttore editoriale. Il suo posto è stato preso da Alessandro Sallusti. E siamo invece alla RAI. Ieri la prima puntata di Anno Zero, ripartono le polemiche. Riparte Anno Zero e ripartono anche le polemiche, in realtà mai del tutto sopite, fra Michele Santoro e i vertici RAI. Ieri sera, appena tornato in video, il giornalista ha di fatto mandato a quel paese il direttore generale Masi. Uno viene e vi dice che sia il governo, che sia un'autorità, che sia un direttore. Ho deciso che tutti i bicchieri, anche quelli della tua azienda, possono essere messi in commercio solo se hanno il marchio Libertà. E lo devono avere ex ante il marchio Libertà, questi bicchieri. Voi cosa fareste? Voi cosa gli dite al governo, all'autorità, al direttore che vi dice una cosa simile? Ma vaffa, un bicchiere, no? Parole definite subito inaccettabili da Masi, che ha chiesto che il CDA di Viale Mazzini si occupi del caso quanto prima. A fianco di Santoro, stamattina, dai microfoni di Radio 24, intanto si è schierato il consigliere RAI Rizzo Nervo. Il problema del direttore generale è che forse non ha ancora capito che cos'è un'azienda che fa comunicazione, che fa un prodotto, una volta che si dicevano, di intrattenimento culturale e di informazione. Ora, queste aziende non si governano né con le circolari né con la presunzione di poter controllare qualsiasi fiato ognuno respiri in quel momento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero. La mobilitazione internazionale non ha salvato la vita alla detenuta americana Teresa Lewis. Teresa, quando erano le 3 di notte in Italia, è stata uccisa con un'iniezione letale. Al telefono, dal carcere, Teresa Lewis cantava I need a miracle. Ho bisogno di un miracolo. Nel 2003, quella che il presidente iraniano Ahmadinejad ha definito la Sakineh americana fu ritenuta colpevole di aver organizzato l'omicidio del marito e del figlio adottivo per incassare i $350,000 dell'assicurazione sulla vita del giovane ed ereditare la casa del compagno. Il giudice condannò all'ergastolo i due esecutori materiali degli omicidi, ma punì Teresa con la pena di morte, argomentando che lei era la mandante. Pochi mesi dopo, però, uno dei killer scrisse una lettera in cui confessava di aver circuito Teresa per mettere le mani sul denaro. E Teresa accettò, perché era una donna fragile e al limite dell'incapacità di intendere e di volere, come hanno certificato i medici. L'assassino, però, dopo aver scritto la lettera, si suicidò e la sua confessione non poté essere utilizzata nel processo d'appello, che infatti confermò la condanna a morte. Nonostante le disabilità mentali e fisiche, il recupero, il percorso di fede, nonostante tutto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il figlio di Sakineh, la donna condannata alla lapidazione in Iran, ha scritto una lettera aperta a Ban Ki-moon chiedendo al segretario dell'ONU di salvare la vita alla madre, lo scrive oggi il Times. La sentenza non è stata annullata, fa conoscere il figlio di Sakineh, ma è stata solo rinviata. E le dichiarazioni fatte dall'ONU all'ONU dal presidente dell'Iran Ahmadinejad sono ingiuriose e inaccettabili, lo dice l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Catherine Ashton, riferendosi al discorso di Ahmadinejad all'ONU, nel quale ha dichiarato che dietro agli attacchi alle Torri Gemelle ci sono gli stessi Stati Uniti. A nome dell'Unione Europea, concluso la Ashton, voglio esprimere la mia solidarietà alle famiglie e agli amici delle vittime degli attacchi dell'11 settembre. La polizia israeliana ha elevato lo stato di allerta nella città vecchia di Gerusalemme in occasione della festa ebraica dei Tabernacoli, ma dai negoziati di pace sarebbe pronta un'intesa. L'inviato a Tel Aviv, Ugo Tramballi. Dopo quanto detto da Barack Obama ieri all'ONU, fra un anno lo Stato palestinese e la moratoria sugli insediamenti è una buona cosa, è difficile che domenica Bibi Netanyahu dia l'ordine di riprendere a costruire colonie nei territori palestinesi occupati. Quello che il premier israeliano vorrebbe dire apertamente alla scadenza dell'attuale moratoria di 10 mesi è che l'attività edilizia riprenderà, ma solo in quei blocchi di colonie che saranno annessi a Israele in cambio di altra terra equivalente ai palestinesi, quando e se verrà conclusa una pace. Un compromesso sul quale sono d'accordo tutti, americani, arabi, europei, palestinesi. Se tuttavia Bibi annunciasse questo, salverebbe il volto di Israele di fronte al mondo, ma non se stesso. È la sua maggioranza di governo che cadrebbe, non solo gli alleati nazionalisti e religiosi, anche una buona parte del suo stesso partito, il Likud, sfiducerebbe Netanyahu. Oltre 50.000 posti di lavoro vacanti nell'industria e nei servizi, Sacconi. Questa anomalia è il risultato delle note carenze del sistema educativo e formativo perfino nel mezzogiorno. Vicenda Monte Carlo AN, il ministro di Santa Lucia. È vera la lettera in cui si dice che Giancarlo Tulliani è titolare della società. Gli appelli internazionali non hanno fermato il boia. Uccisa in Virginia la donna con problemi mentali. Ripartiamo dall'emergenza rifiuti a Napoli. Paolo Picone in diretta, dove ti sei spostato e cosa vedi? Allora, adesso io mi trovo in via Amerigo Vespucci, non lontano da Piazza Municipio. La situazione, come nelle altre parti della città, ancora cumuli di rifiuti un po' dappertutto, anche se proprio nelle vicinanze di Piazza Municipio la situazione sembra migliorata negli ultimi minuti. Intanto stiamo ancora vedendo in azione gli autocompattatori del comune per le strade di Napoli, scortati dalle pattuglie della polizia. Sono segnalati peraltro roghi in tutta la città, in particolare la spazzatura è andata a fuoco poco fa nel campo Rom di Scampia, quartiere di periferia nord di Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre. Qui i pompieri hanno raccontato di aver trovato un'enorme discarica a cielo aperto e il rogo è certamente di natura dolosa. E comunque, tornando a Napoli, ci vorrà una settimana per riportare la situazione alla normalità se tutto procederà senza ulteriori intoppi, quanto ci ha confermato l'assessore comunale all'igiene Paolo Gaetano Giacomelli, che questa mattina ha fatto il punto della situazione con il sindaco di Napoli. Questa notte, a dire del comune, con doppi turni dei dipendenti della SIA, sono state raccolte 100 tonnellate in più del normale. Ora ne restano quasi 700 ancora da raccogliere. La raccolta va a rilento anche perché i camion non possono scaricare nelle discariche di Chiaiano e Terzigno anche di giorno. Davanti a quest'ultima discarica, lo ricordiamo, prosegue la protesta della gente che non vuole l'apertura del secondo sversatoio. Per il momento da Napoli è tutto, a dopo per gli ulteriori aggiornamenti. Grazie a Paolo Picone. Caso di violenza sessuale in provincia di Reggio Emilia. Una donna di 40 anni è stata stuprata dal vicino che si è introdotto in casa mentre lei stava dormendo. L'uomo, marocchino di 20 anni, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni e violazione di domicilio, dopo che la donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Lo stupro è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Ed ora parliamo di scuola. Fa discutere in Lombardia il progetto Allenati alla vita. L'iniziativa prevede una serie di incontri per promuovere la cultura della legalità e delle istituzioni, come si legge nella circolare che lo presenta. Fra i corsi, diritto costituzionale, difesa nucleare, armi e tiro. Da qui l'accusa di militarizzazione della scuola. Giuseppe Colosio, direttore generale dell'Ufficio Scolastico della Lombardia, ai nostri microfoni risponde così alle critiche. Le armi non c'entrano. Fra le attività, in maniera molto moderata, è previsto il tiro con l'arco, il tiro con la carabina ad aria compressa, esattamente come un'attività sportiva, come nelle Olimpiadi, come nelle gare nazionali. Quindi respingo totalmente questa idea di militarizzazione o altre cose peggiori. Al fondo invece c'è la volontà di fare prevenzione al bullismo, di fare prevenzione a comportamenti personali che non siano autolesionistici, che siano invece corretti sotto il profilo dell'alimentare e delle sostanze. E in Trentino in questi giorni si parla proprio di scuola. Com'è e come dovrebbe essere? Rovereto dedica un lungo fine settimana all'educazione. Da giovedì fino a domenica gli spazi pubblici del comune trentino si animeranno di seminari, laboratori creativi per ragazzi e spettacoli per raccontare la scuola, troppo trascurata nel nostro paese, secondo gli organizzatori di Educa, il terzo incontro nazionale sull'educazione. Paola Gorni è un'insegnante di Milano, fa parte del centro studi Riccardo Massa. Molto spesso si parla della scuola in modo direi molto teorico. Posso raccontarle un'esperienza di un successo, a mio parere, formativo. Un ragazzino di una terza media, piccolo, minuto, insicuro, è riuscito a diventare protagonista di un esame orale e quindi in quel momento c'è riuscito anche a catturare tutta quanta l'attenzione anche dei suoi compagni di classe. Allora la domanda è: che cosa ha funzionato in questo? Thomas Ghibellino invece è un ragazzo che ha contribuito a creare il metodo di valutazione VESPA. In concreto, invece di fare i soliti questionari, si cerca di incontrare i ragazzi, i professori direttamente. Ed è emerso molto chiaramente come i ragazzi non vedono la scuola come un'occasione per realizzare i propri sogni, se non nella misura di percorso obbligatorio. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Governo indiano in crisi per quella che sembra davvero la maledizione dei giochi del Commonwealth. A Nuova Delhi, bambini assoldati per ultimare le strutture che ospiteranno tra pochi giorni i giochi del Commonwealth. La CNN pubblica in apertura del suo sito una galleria di immagini che lo dimostrano. Bambini con pale e mattoni che maneggiano martelli e camminano in bilico sulle impalcature degli edifici in costruzione. La competizione potrebbe essere l'occasione per mostrare il nuovo volto dell'India, economia emergente come la Cina. Ma invece di essere la risposta indiana a Pechino 2008, si sta trasformando in una catastrofe. Dopo le precarie condizioni igieniche del villaggio degli atleti, un'epidemia di febbre, un attentato, il crollo di un ponte e le piogge monsoniche, sono arrivati i primi ritiri, tra cui quello del giamaicano Usain Bolt. Gran Bretagna e Nuova Zelanda hanno intanto confermato la partecipazione. I progressi di questi ultimi giorni sono sensibili, hanno spiegato. Scozia e Australia ancora non hanno sciolto le riserve. Anche la stampa australiana si scaglia contro i giochi. Secondo un quotidiano, l'India avrebbe ottenuto l'assegnazione comprando per 10 milioni di dollari voti. Notari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arbitri sotto assedio dopo gli errori della partita Brescia-Roma. Intanto il presidente della Federcalcio Abete proporrà per il 14 ottobre il primo incontro della stagione fra i dirigenti arbitrali e presidenti della società di Serie A per discutere sull'andamento del campionato e per uno scambio di riflessioni. Dura un attimo il fair play invocato a inizio campionato, il tempo che i bisbiglii delle prime giornate deflagrino negli errori che Carmine Russo, l'arbitro di Brescia-Roma, commette a danno dei giallorossi, che vanno KO per 2-1 e perdono l'espulso Mexès per 3 giornate. Il giorno dopo partono bordate dalla capitale. Furiosa Rosella Sensi, che parla di ciechi che arbitrano e definisce inadeguati i vertici arbitrali. Amareggiato il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, che preannuncia lo stop di Russo. Siamo amareggiati. Peccato che in una partita abbiamo fatto male, questo è il nostro rammarico. Il presidente della Lega Calcio, Beretta, fa da sponda alle rimostranze capitoline. Corioni difende il suo Brescia. Nell'ingrato ruolo di pompieri, il presidente federale Abete e quello del CONI Petrucci, che già si immagina un'altra annata ad alta tensione per il pallone nostrano. Uno può dire che l'arbitro ha sbagliato una partita, ma non deve offendere. Dobbiamo migliorare, si deve correggere, ma è troppo triste. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non farò mancare il mio sostegno perché continuo a credere nel cinema italiano, così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla festa per i 75 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il ministro Bondi ha assicurato che si impegnerà per rinnovare tax credit e tax shelter per un reintegro almeno parziale del Fondo Unico per lo Spettacolo. Fra gli ospiti della festa Giancarlo Giannini, sentiamolo al microfono di Chiara Di Michele. È bellissimo perché è tanto che non facevamo una cosa del genere e devo ringraziare il Presidente della Repubblica che insomma c'è stato un tanto di sostegno quando ci avevano tolto i fondi, le cose. Lui è stato uno dei primi a dire no, assolutamente, questa scuola che è veramente la scuola più antica del mondo, che ha una tradizione straordinaria, qui da qui sono nati i più grandi registi italiani e soprattutto anche gli stranieri che sono venuti a studiare qui. Parlando solo di registi, ma qui c'è scenografia, c'è montaggio, c'è costume, c'è attori, insomma. E quindi stasera è un avvenimento importante per noi perché è come una specie di partenza nuova del centro. Che film amano i giapponesi? Quali documentari interessano i francesi? Che tipo di musica prediligono i romeni? Conoscere e far conoscere i programmi delle radio e delle TV di altri paesi e premiare i migliori. È questo l'obiettivo del PRI Italia, il premio internazionale della radio e della TV, che si conclude oggi a Torino con la cerimonia di premiazione dei vincitori. Sentiamo. Erano 175 programmi televisivi e radiofonici, tra cui sono stati scelti i vincitori del 62esimo PRI Italia. Le giurie internazionali hanno premiato, tra gli altri, una fiction austriaca per la radio che racconta dei bambini soldato, una serie televisiva danese che racconta le vicende private e pubbliche di una donna alla guida di un partito, un documentario radiofonico finlandese sulla storia di un musicista e poi un film giapponese sulla solitudine, un documentario francese sui media, trasmissioni di musica classica e d'arte e poi un programma inglese che parla dei sogni dei bambini iracheni. Al di là della lista dei vincitori, che sono numerosi e che troverete tra poco sul nostro sito, alcune considerazioni. Suoni, immagini, colori e soprattutto ritmi sono diversi da paese a paese, così come alcune sensibilità hanno una loro collocazione geografica. Dai paesi del nord Europa, molti lavori legati al disagio sociale e personale, dai paesi dell'est, molte storie di guerra recente, nei lavori italiani grande attenzione al fenomeno della criminalità organizzata. Ma un tratto comune ai programmi in onda in tutti i paesi è il racconto con documentari, con film, con programmi radiofonici dei grandi drammi del sud del mondo: l'immigrazione, la guerra, la povertà, le sorti dei più deboli. Lunedì e martedì, retrospettiva del PRI al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Alessandra Scaglioni, Radio 24, Sole 24 Ore, Torino. A Milano oggi la prima del musical Mamma Mia, l'evento più atteso della stagione. Mamma mia, here I go. Questa canzone, come le altre degli ABBA, le sentirete in italiano. E sì, perché la versione del musical Mamma Mia in scena al Teatro Nazionale di Milano è interamente in italiano, come spiega una delle interpreti femminili, Giada Russo. Le traduzioni sono molto buone, non abbiamo avuto nessuno stacco rispetto alle canzoni originali, nel senso che è tutto molto concreto quando cantiamo. Protagonista di questa versione Made in Italy è Chiara Noschese, che interpreta Donna, per intenderci il ruolo di Meryl Streep nella versione cinematografica. Una signora stravagante che vive in Grecia e che alla vigilia del matrimonio della figlia deve svelare chi è il padre della ragazza. Mamma Mia è un cult fra i musical, ha debuttato nel 99 a Londra e da allora è stato portato in 270 città per un totale di 42 milioni di spettatori. Paura del confronto? Sentiamo Chiara Noschese. Ci sentiamo la responsabilità, però sotto c'è una macchina molto forte, che va molto veloce, quindi tu ti devi sedere comodo e fare il tuo lavoro. A Milano Mamma Mia resterà in scena per tutto l'inverno. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.